ma tu sii coraggioso e comportati da uomo. Osserverai i precetti del Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e praticando i suoi statuti, i suoi comandamenti, i suoi decreti e le sue prescrizioni in conformità con quanto sta scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai. In tal modo il Signore confermerà la promessa che mi ha fatto: se i tuoi figli regoleranno la loro condotta camminando lealmente al mio cospetto con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti mancherà mai un successore sul trono di Israele. Tu pure hai saputo quello che mi fece Joab, figlio di Zeruia, quanto cioè fece ai due capi degli eserciti di Israele, ad Abner, figlio di Ner, e ad Amasà, figlio di Jeter. Li ha massacrati, ha versato durante la pace il sangue di guerra ed ha macchiato di sangue innocente la cintura che avevo ai fianchi e i sandali che portavo ai piedi. Agirai saggiamente se non permetterai che la sua canizie discenda in pace nello Sheol. Quanto ai figli di Barzillai, il Galadita, tu li tratterai benevolmente ed essi saranno fra coloro che mangiano la tua tavola, perché furono essi appunto che mi vennero incontro quando fuggivo di fronte a tuo fratello Assalonne. Ecco presso di te Semei, figlio di Gera, il beniaminita di Bacurim, colui che mi maledisse con una maledizione atroce nel giorno in cui me ne andavo a Macanaim. È vero che egli scese ad incontrarmi al Giordano ed io gli giurai per il Signore: non ti ucciderò di spada. Tu però non lasciarlo impunito, e da uomo avveduto qual sei saprai come trattarlo e come far scendere la sua canizie insanguinata nello Sheol. Poi Davide s'addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Davide regnò su Israele per 40 anni, 7 anni in Hebron e 33 a Gerusalemme. Salomone si insediò sul trono di Davide suo padre e il suo regno si consolidò fortemente. Adonia, figlio di Aggit, si recò da Bezzabea, madre di Salomone, che gli domandò: «È pacifica la tua venuta?» Quegli rispose: «È pacifica». Poi soggiunse: «Ti devo dire una cosa». Quella rispose: «Parla pure». Egli riprese: «Tu sai bene che il regno apparteneva a me e che tutto Israele s'aspettava che io divenissi re. Invece il regno m'è sfuggito ed è toccato a mio fratello, perché il Signore glielo aveva concesso. Ora ho una sola domanda da rivolgerti, non me la rifiutare». Gli disse: «Parla». Egli rispose: «Di al re Salomone, poiché non si rifiuterà, che mi dia in moglie Abisag di Sunem». Rispose Bezzabea: «Bene, io stessa parlerò al re in tuo favore». Andò dunque Bezzabea dal re Salomone per parlargli di Adonia, e il re s'alzò per andarle incontro, si prostrò davanti a lei e si sedette sul trono. Poi si collocò un trono per la madre del re ed ella si sedette alla sua destra. Questa disse: «Ho una piccola domanda da rivolgerti, non me la rifiutare». Le rispose il re: «Domanda pure, o madre mia, perché non te la rifiuterò». Ella continuò: «Si dia Abisag di Sunem in moglie a tuo fratello Adonia». Il re Salomone replicò a sua madre: «Ma perché chiedi Abisag di Sunem per Adonia? Chiedi pure per lui il regno, perché egli è mio fratello maggiore e per lui stanno il sacerdote Abiatar e Joab, figlio di Zeruia». Poi il re Salomone giurò per il Signore: «Che Dio mi faccia questo male e aggiunga ancora quest'altro, se non è a prezzo della sua vita che Adonia ha pronunciato queste parole. Orbene, com'è vero che vive il Signore, che mi ha confermato e collocato sul trono di mio padre Davide, e come mi ha promesso mi ha fondata una casa, oggi stesso Adonia sarà messo a morte». Il re Salomone inviò pertanto Benaia, figlio di Joiada, che lo colpì a morte. Il re disse al sacerdote Ebiatar: «Vattene ad Anatot, ai tuoi poderi, perché ti meriti la morte. Tuttavia non ti farò morire oggi, perché hai portato l'arca del Signore in presenza di Davide, mio padre, e hai partecipato a tutte le prove che mio padre sopportò». Salomone depose Ebiatar dall'ufficio di sacerdote del Signore, attuando così la parola che il Signore aveva pronunciato contro la casa di Eli a Silo. La notizia intanto giunse a Joab, che s'era schierato per Adonia, senza però parteggiare per Assalonne. Joab si rifugiò nella tenda del Signore e s'aggrappò ai corni dell'altare. Fu perciò avvertito il re Salomone: «Joab si è rifugiato nella tenda del Signore, ed ecco che sta accanto all'altare». Salomone mandò Benaia, figlio di Joiada, dicendogli: «Va, colpiscilo». Benaia andò nella tenda del Signore e gli disse: «Così ha ordinato il re, esci». Quegli rispose: «No, voglio morire qui». Benaia riferì la cosa al re. «Così ha detto Joab, e così ha risposto». Allora il re soggiunse: «Fa come gli ha detto, colpiscilo e poi seppelliscilo. Così stornerai da me e dalla casa di mio padre il sangue sparso da Joab senza motivo. Il Signore farà ricadere sul suo capo il sangue che egli versò quando colpì due uomini più giusti e più buoni di lui e li uccise di spada, a insaputa di mio padre Davide, cioè Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di Israele, e Amasà, figlio di Jeter, capo dell'esercito di Giuda. Il sangue loro ricadrà sul capo di Joab e dei suoi discendenti in perpetuo. Invece Davide, i suoi discendenti, la sua dinastia e il suo trono avranno pace per sempre da parte del Signore». Allora Benaia, figlio di Joiada, salì, lo colpì e lo fece morire. Fu poi seppellito nella sua casa nel deserto. Al suo posto il re pose a capo dell'esercito Benaia, figlio di Joiada, e al posto di Ebiatar pose il sacerdote Zadok. Il re mandò pure a chiamare Semei e gli disse: «Costruisciti una casa in Gerusalemme, vi abiterai, ma non ne uscirai per andare qua o là. Quel giorno in cui tu uscissi e attraversassi il torrente Cedron, sappi che certamente morrai e il tuo sangue ricadrà sul tuo capo». Semei rispose al re: «Sta bene, il tuo servo agirà come il re mio signore ha ordinato». E Semei dimorò molto tempo in Gerusalemme. Passati però 3 anni, due schiavi di Semei fuggirono presso Achis, figlio di Maaca, re di Gat. Alcuni informarono Semei dicendogli: «Ecco, i tuoi schiavi si trovano a Gat». Allora Semei si levò, sellò il suo asino e si recò a Gat presso Achis a reclamare i suoi schiavi. Poi se ne tornò conducendoli con sé da Gat. Fu riferito a Salomone che Semei da Gerusalemme era andato a Gat ed era tornato. Il re allora mandò a chiamare Semei e gli disse: «Non ti ho fatto giurare per il Signore e ammonito dicendoti: nel giorno in cui uscirai per andare qua o là sappi che certamente morrai? Non mi hai tu risposto: va bene, ho inteso? Perché dunque non hai osservato il giuramento del Signore e gli ordini che ti avevo impartiti?» Disse ancora il re a Semei: «Tu sai, giacché la tua coscienza te lo attesta, tutto il male che hai fatto a Davide mio padre. Ora il Signore ti farà ricadere sul capo la tua malvagità. Invece il re Salomone sarà benedetto e il trono di Davide sarà saldo in perpetuo innanzi al Signore». E il re comandò a Benaia, figlio di Joiada. Egli uscì e lo colpì a morte. Così il potere reale si consolidò nelle mani di Salomone. Salomone divenne genero del faraone, re d'Egitto. Infatti ne sposò la figlia e la condusse nella città di Davide e la condusse nella città di Davide finché non ebbe ultimato la costruzione del Signore e del muro di cinta di Gerusalemme. Il popolo però offriva i sacrifici sulle alture, perché fino a quel tempo non era ancora stato edificato il tempio al nome del Signore. Salomone amava il Signore camminando in conformità alle disposizioni di Davide suo padre. Solamente offriva i sacrifici e l'incenso sulle alture. Il re si recò ad offrire sacrifici a Gabaon, che era l'altura più importante. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone e gli disse: «Chiedimi ciò che devo darti». Salomone rispose: «Tu hai usato grande benevolenza verso il tuo servo Davide, padre mio, ed egli ha camminato al tuo cospetto con lealtà, con giustizia e con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come oggi accade. Pertanto, Signore mio Dio, tu hai fatto re il tuo servo al posto di Davide mio padre, ma io, giovanetto qual sono, non so come comportarmi. Il tuo servo si trova in mezzo al popolo che hai scelto, un popolo numeroso, che non può essere calcolato né contato, tanto è grande. Concedi dunque al tuo servo un cuore che sappia giudicare il tuo popolo, in modo da distinguere il bene dal male, altrimenti chi potrà mai governare questo tuo popolo così numeroso?» Piacque al Signore che Salomone avesse fatta questa richiesta. Dio perciò gli disse: «Poiché tu hai domandato questa cosa e non hai domandato per te una vita lunga, né ricchezze, né la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te intelligenza per ben discernere il diritto, ecco che io agisco secondo le tue parole. Ecco, io ti dono un cuore saggio e perspicace, come non ci fu prima di te né uguale sorgerà dopo di te. Anzi, io ti dono pure quanto non hai chiesto, cioè ricchezze e onore, così che tra i re non ci sia mai alcuno uguale a te. Se poi camminerai nelle mie vie, custodendo i miei precetti e i miei ordini come ha fatto Davide tuo padre, io ti prolungherò anche i tuoi giorni». Al risveglio Salomone s'accorse che era un sogno. Egli rientrò a Gerusalemme e si presentò innanzi all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, immolò sacrifici di comunione e fece un banchetto a tutti i suoi servi. Si presentarono al re due prostitute che erano venute da lui. Una delle donne disse: «Di grazia, signor mio, questa donna ed io abitavamo la stessa casa. Qui io partorii accanto a lei. 3 giorni dopo di me, ecco che anche questa donna partorì. Noi due stavamo insieme, né c'era alcun estraneo nella casa all'infuori di noi due. Or il figlio di questa donna morì di notte perché lei gli si era coricata sopra. Essa allora si alzò nel cuore della notte, levò mio figlio dal mio fianco mentre la tua schiava dormiva, se lo pose in seno e il suo figlio morto lo collocò sul mio seno. Io mi alzai al mattino per allattare il mio bambino, ma lo trovai morto. Però l'osservai bene e m'accorsi che non era il figlio che avevo partorito. Ma l'altra donna replicò: «Non è vero, mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto». Ma quella insisteva: «Non è vero, tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo». Così litigavano innanzi al re. Allora il re disse: «L'una afferma è mio figlio quello vivo, invece il tuo è quello morto, e l'altra: non è vero, tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo». Il re perciò ordinò: «Portatemi una spada». Portata che fu la spada innanzi al re, questi soggiunse: «Dividete il figlio vivo in due e datene metà all'una e metà all'altra». Ma la donna, il cui bimbo era ancora vivo, mossa da profonda compassione per suo figlio, disse al re: «Di grazia, mio signore, date a lei il bimbo vivo, ma non uccidetelo». L'altra invece diceva: «Non sarà né mio né tuo, dividete». Allora il re prese la parola e sentenziò: «Quella che disse: date a costei il bimbo vivo, ma non l'uccidete, questa è sua madre». Tutto Israele conobbe il giudizio emesso dal re e nutrì un profondo rispetto nei suoi riguardi, perché vide che v'era in lui una sapienza divina per dettare giustizia. Il re Salomone regnò dunque su tutto Israele. Questi erano i suoi alti funzionari. Azaria, figlio di Zadok, Sachia, figli di Sisa, scribi, Giosafat, figlio di Achillud, araldo, Benaiah, figlio di Joiada, capo dell'esercito, Zadok ed Ebiatar, sacerdoti, Azaria, figlio di Natan, capo dei prefetti, Zabud, figlio del sacerdote Natan, amico del re, Achisar, sovrintendente del palazzo, Adoniram, figlio di Abda, sovrintendente dei lavori forzati. Salomone aveva poi 12 prefetti su tutto Israele, i quali dovevano provvedere al re e alla sua casa un mese all'anno per ciascuno. Questi sono i loro nomi: il figlio di Cur, sulla montagna di Efraim, il figlio di Decher, a Macaz, Saalbim, Bet-Semes, Ayalon, sino a Bet-Canan. Il figlio di Chesed, ad Arubot, aveva Soco e tutto il paese di Kefer. Il figlio di Abinadab aveva tutta la costa di Dor. Tafat, figlia di Salomone, era sua moglie. Baana, figlio di Achilud, aveva Taanach, Megiddo, finoltre Iocmeam, e tutto Bet-Sean al di sotto di Israel, da Bet-Sean sino ad Abel-Mecola verso Zartan. Il figlio di Geber a Ramot di Galaad, egli aveva i villaggi di Jair, figlio di Manasse, in Galaad, il territorio di Argob nel Basan, 60 grandi città con mura e catenacci di bronzo. Achinadab, figlio di Iddo, a Macanaim. Achimaaz, in Neftali, anch'egli aveva sposato una figlia di Salomone, Bosmat. Baana, figlio di Cusai, in Aser e Zabulon. Giosafat, figlio di Paruach, in Issacar. Simei, figlio di Ela, in Beniamino. Geber, figlio di Uri, nel paese di Gad, già terra di Sicon, re degli Amorrei, e di Og, re di Basan. Un prefetto stava nel paese. Giuda e Israele erano numerosi come la sabbia del mare. Mangiavano, bevevano e stavano allegri. Salomone dominava tutti i paesi, dal fiume fino al paese dei Filistei e al confine d'Egitto. Essi offrivano tributi e servirono Salomone per tutti i giorni della sua vita. La provvista di viveri di Salomone per ciascun giorno era di 30 cordi fior di farina, 60 cordi farina comune, 10 buoi grassi, 20 buoi da pascolo, 100 capi di bestiame minuto, senza contare i cervi, le gazzelle, le antilopi e i volatili grassi. Egli infatti dominava tutti i paesi oltre il fiume, da Tipsac fino a Gaza, tutti i re oltre il fiume, e vera pace tutti intorno ai suoi confini. Giuda e Israele abitarono al sicuro, ciascuno all'ombra della sua vite e del suo fico, da Dan a Bersabea, durante l'intera vita di Salomone. Salomone aveva 4.000 scuderie per i cavalli dei suoi carri e 12.000 cavalli. I suddetti prefetti provvedevano al re Salomone e a tutti quelli che avevano accesso alla sua mensa, ciascuno per il suo mese, né gli lasciavano mancare nulla. L'orzo poi e il foraggio per i cavalli e le bestie da tiro li facevano arrivare nel luogo in cui ciascuno si trovava, secondo il suo incarico. Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza grandissima e un cuore vasto come la sabbia sulla spiaggia del mare. La sapienza di Salomone fu più grande che la sapienza di tutti i figli d'Oriente e tutta la sapienza d'Egitto. Egli fu più sapiente di ogni altro uomo, più di Etan e l'Esrachita, di Eman, di Calcol e di Darda, figli di Macol. La sua fama si diffuse fra tutte le nazioni circonvicine. Egli pronunciò 3000 proverbi e i suoi carmi furono 1005. Trattò degli alberi, dal cedro che si trova sul Libano sino all'issopo che spunta dal muro. Dissertò anche sul bestiame e sui volatili, sui rettili e sui pesci. Venivano a udire la sapienza di Salomone da tutti i popoli e da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza. Chiram, re di Tiro, inviò i suoi servi presso Salomone, poiché aveva udito che questi era stato unto re al posto di suo padre, e Chiram era sempre stato amico di Davide. Allora Salomone mandò a dire a Chiram: «Tu sai bene che mio padre Davide non ha potuto edificare un tempio al nome del Signore suo Dio a causa della guerra che i nemici gli mossero da ogni parte, finché il Signore non li ebbe posti sotto le piante dei suoi piedi. Ora il Signore mio Dio mi ha concesso quiete, né v'è avversario o pericolo di male. Ho perciò l'intenzione di costruire un tempio al nome del Signore mio Dio, in conformità a quello che il Signore ha detto a Davide, mio padre. Tuo figlio, che porrò al tuo posto sul tuo trono, lui costruirà il tempio al mio nome. Pertanto, ordina che mi si taglino cedri del Libano. I miei servi staranno con i tuoi, ed io ti pagherò l'ingaggio dei tuoi servi secondo tutto quello che stabilirai. Tu sai bene che fra di noi non c'è nessun esperto nell'abbattere alberi come i Sidoni». Quando Chiram udì le parole di Salomone, ne gioì assai ed esclamò: «Sia oggi benedetto il Signore che ha dato a Davide un figlio saggio per governare questo grande popolo». Quindi Chiram mandò a dire a Salomone: «Ho ricevuto il tuo messaggio. Io soddisferò ogni tua richiesta di legno di cedro e di cipresso. I miei servi li faranno scendere dal Libano al mare, poi io li farò rimorchiare per mare fino al luogo che mi avrai indicato. Lì li farò sciogliere e tu li prenderai. In compenso, tu soddisferai la mia richiesta fornendo l'approvvigionamento della mia casa». Così Chiram fornì a Salomone tanto legno di cedro e di cipresso quanto ne volle. A sua volta Salomone consegnò a Chiram 20.000 cor di grano per il mantenimento della sua casa e 20.000 misure di olio vergine. Tanto consegnava Salomone a Chiram anno per anno. Ora il Signore accordò a Salomone la sapienza, come gli aveva promesso. Di conseguenza ci fu pace tra Chiram e Salomone, e questi strinsero un patto tra loro. Il re Salomone fece un reclutamento di lavoratori forzati da tutto Israele, che ammontava a 30.000 uomini. Li mandò poi al Libano a gruppi di 10.000 per mese. Un mese stavano nel Libano e 2 mesi a casa. Sovrintendente del lavoro forzato era Adoniram. Salomone aveva anche 70.000 portatori e 80.000 tagliapietre sulla montagna, oltre i sovrintendenti dei prefetti di Salomone che dirigevano i lavori numero di 3.300 e comandavano la massa degli operai. Il re ordinò di cavare pietre grosse, pietre pesanti da porre come fondamenta al tempio, pietre squadrate. Gli operai di Salomone, assieme a quelli di Chiram e di Biblos, le sgrossarono e così prepararono il legno e le pietre per la costruzione del tempio. Nell'anno 480 dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, nel quinto anno del regno di Salomone su Israele, nel mese di Ziv, il secondo mese dell'anno, egli incominciò a costruire il Tempio del Signore. Il Tempio che il re Salomone costruì al Signore era lungo 60 cubiti, largo 20 e alto 30.

questo tempio diverrà un mucchio di rovine. Chiunque gli passerà vicino rimarrà stupefatto, fischierà per lo stupore e dirà: perché il Signore ha agito in questo modo con questo paese e con questo tempio? Gli risponderanno: perché hanno abbandonato il Signore Dio loro, che ha fatto uscire i loro padri dal paese d'Egitto, e hanno aderito a dei stranieri, li hanno adorati e serviti. Perciò il Signore ha inviato su di loro tutti questi mali. Dopo il periodo di 20 anni in cui Salomone aveva costruito i due edifici, il Tempio del Signore e il Palazzo Reale, poiché Chiram, re di Tiro, gli aveva fornito legno di cedro e di cipresso e oro secondo tutti i suoi desideri, il re Salomone diede a Chiram 20 città nella regione di Galilea. Chiram venne da Tiro per visitare le città che Salomone gli aveva ceduto, ma non le trovò di suo gradimento. Disse perciò: «Che città sono queste che mi hai ceduto, fratello mio?» Per questo si chiamano paese di Kabul fino ad oggi. Chiram mandò al re 120 talenti d'oro. Ecco quanto riguarda il reclutamento che il re Salomone fece per costruire il Tempio del Signore, il suo proprio palazzo, il Millo e il Muro di Gerusalemme, Azor, Megiddo e Gezer. Faraone, il re d'Egitto, era salito e aveva conquistato Gezer. L'aveva incendiata, aveva massacrato i cananei che l'abitavano e l'aveva data in dote alla figlia, moglie di Salomone. Perciò Salomone ricostruì Gezer, Bet Oron inferiore, Baalat e Tamar nel deserto del paese, tutte le città da magazzini appartenenti a Salomone, le città per i suoi carri e i suoi cavalli e quanto volle edificare a Gerusalemme sul Libano e per tutto il territorio sottoposto al suo dominio. Tutta la gente rimasta degli Amorrei, Hittiti, Perizziti, Evei e Gebusei, i quali non appartenevano ai figli di Israele, cioè i loro discendenti che erano ancora rimasti nel paese perché i figli di Israele non erano stati capaci di votarli all'anatema, Salomone li ingaggiò nei lavori forzati fino ad oggi. Ma ai figli di Israele non impose alcun lavoro forzato, perché essi servivano come soldati. Erano le sue guardie, i suoi ufficiali, i suoi scudieri, gli ufficiali dei suoi carri e dei suoi cavalieri. Tra essi v'erano i 550 capi dei prefetti, che dirigevano i lavori di Salomone. Essi comandavano la gente impiegata nei lavori. Dopo che la figlia di Faraone salì dalla città di Davide alla casa che Salomone le aveva edificato, egli costruì il Millo. Salomone offriva 3 volte all'anno olocausti e sacrifici di comunione sull'altare che gli aveva costruito al Signore e bruciava aromi davanti al Signore. Così terminò il Tempio. Il re Salomone costruì pure una flotta a Ezion Geber, presso Elat, sulla spiaggia del Mar Rosso, nella regione di Edom. Chiram mandò sulle navi i suoi servi, che erano marinai esperti di mare, assieme ai servi di Salomone. Essi andarono a Ofir, dove presero oro per 420 talenti, e lo portarono al re Salomone. La regina di Saba, avendo udito parlare della fama di Salomone, venne per metterlo alla prova con enigmi. Essa giunse a Gerusalemme con una numerosa scorta di cammelli che trasportavano aromi, oro in gran quantità e pietre preziose. Presentatasi a Salomone, gli manifestò tutto quello che aveva nel cuore, ma Salomone dilucidò tutti i suoi quesiti, né ci fu cosa oscura che il re non sapesse spiegargliela. La regina di Saba vide tutta la sapienza di Salomone, il palazzo che gli aveva costruito, i cibi della sua mensa, l'abitazione dei suoi servi, il comportamento dei suoi ministri, le loro vesti, i suoi coppieri e gli olocausti che offriva nel Tempio del Signore. Rimase senza fiato e disse al re: «Era dunque proprio vero quanto udito nel mio paese riguardo alle tue opere e alla tua sapienza. Tuttavia non l'ho creduto finché non sono venuta e non ho visto con i miei occhi. Ma ecco, non mi era stato riferito neppure la metà. La tua sapienza e la tua prosperità superano quanto ho sentito dire. Felici le tue donne, felici questi tuoi servi che stanno di continuo alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore tuo Dio che ti ha mostrato il suo favore ponendoti sul trono di Israele, perché il Signore che ti ha costituito re per esercitare il diritto e la giustizia ama Israele per sempre. Poi essa diede al re 120 talenti d'oro, grande quantità di aromi e pietre preziose. Non giunsero mai più tanti aromi quanti la regina di Saba ne diede al re Salomone. Anche le navi di Chiram, destinate al trasporto dell'oro di Ofir, portarono da Ofir legno di sandalo in grande quantità e pietre preziose. Con il legno di sandalo il re fece oggetti per il tempio del Signore e il palazzo reale, e fabbricò lire ed arpe per i cantori. Non giunse mai più né si vide tanto legno di sandalo fino ad oggi. Il re Salomone diede alla regina di Saba tutto quello che ella desiderò e chiese, senza parlare di quello che le diede con una munificenza degna di lui. Quindi essa riprese il cammino e se ne andò al suo paese assieme ai suoi servi. Il peso dell'oro che annualmente giungeva a Salomone era di 666 talenti d'oro, senza contare quello che proveniva dai traffici dei mercanti e dal guadagno dei commercianti da tutti i re arabi e dai governanti del paese. Il re Salomone fece anche 200 grandi scudi di oro battuto, su ognuno dei quali applicò 600 sicli d'oro e 300 piccoli scudi d'oro battuto, su ognuno dei quali applicò 3 mine d'oro, e li depose nel palazzo della foresta del Libano. Il re fece pure un gran trono d'avorio che rivestì d'oro fino. Questo trono aveva 6 gradini, teste di tori nella parte posteriore e 2 bracciuoli ai due lati del seggio. 2 leoni erano a fianco dei bracciuoli. 12 leoni stavano ai lati dei 6 gradini. In nessun altro regno era mai stato fatto nulla di simile. Tutte le coppe in cui il re Salomone beveva erano d'oro, come anche tutta la suppellettile del palazzo della foresta del Libano era di oro fino. Infatti, al tempo di Salomone, l'argento non era tenuto in alcun conto. Il re aveva in mare una flotta di Tarsis, oltre alla flotta di Chiram, ed ogni 3 anni la flotta di Tarsis portava oro, argento, avorio, scimmie e babbuini. Il re Salomone superò in ricchezza e sapienza tutti i re della terra. Tutti desideravano essere ricevuti da Salomone per udire la sapienza che Dio gli aveva messo in cuore. Ognuno, anno per anno, gli portava i propri doni, vasi d'argento e d'oro, vestiti, armi, aromi, cavalli e muli. Salomone radunò carri e cavalli ed ebbe 1400 carri e 12.000 cavalli che sistemò nelle città dei carri e a Gerusalemme, vicino al re. Il re ottenne che a Gerusalemme l'argento fosse comune come le pietre e i cedri come i sicomori che abbondano nella Sefela. I cavalli di Salomone provenivano dalla Cilicia. I mercanti del re li acquistavano dalla Cilicia a contanti. Un carro era importato dall'Egitto per 600 sicli, un cavallo costava 150 sicli. Così, tramite questi mercanti, venivano esportati per tutti i re degli Ittiti e i re d'Aram. Il re Salomone amò, oltre la figlia di Faraone, molte donne straniere, moabite, ammonite, idumee, sidonie, ittite, dei popoli di cui il Signore aveva detto ai figli di Israele: «Voi non andrete da loro, né essi verranno da voi, altrimenti piegheranno il vostro cuore verso i loro dei». Invece Salomone si legò ad esse per amore. Egli ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine.

Baasa, re di Israele, salì contro Giuda ed edificò Rama per impedire che si andasse e si venisse da Asa, re di Giuda. Allora Asa prese tutto l'argento e l'oro che era rimasto nei tesori del Tempio e i tesori del Palazzo Reale e li consegnò ai suoi servi che gli mandò da Ben-Hadad, figlio di Tab-Rimmon, figlio di Chezion, re di Aram, che abitava a Damasco, per dirgli: «Ci sia un'alleanza fra me e te, come ci fu tra mio padre e tuo padre. Ecco, ti invio in dono argento e oro. Tu rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, affinché egli s'allontani da me». Ben-Hadad diede ascolto al re Asa e inviò i capi del suo esercito contro le città di Israele. Devastò Ion, Dan, Abel Bet-Maaca, tutta la regione di Genezaret fino all'intera regione di Neftali. Appena Baasa lo seppe, cessò di costruire Rama e ritornò a Tirza. Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda, nessuno escluso, i quali portarono via da Rama le pietre e il legname che Baasa usava per la costruzione, e con essi il re Asa fortificò Geba di Beniamino e Mizpah. Le altre gesta di Asa, tutto il suo valore, tutte le sue azioni e le città che gli costruì, non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Giuda? Però nella sua vecchiaia soffrì di male ai piedi. Asa s'addormentò con i suoi antenati e fu seppellito con i suoi antenati nella città di Davide, suo padre. Al suo posto regnò suo figlio Giosafat. Nadab, figlio di Geroboamo, divenne re di Israele nel secondo anno di Asa, re di Giuda, e regnò 2 anni su Israele. Egli fece il male agli occhi del Signore, imitò la condotta di suo padre e il peccato che questi aveva fatto commettere ad Israele. Baasa, figlio di Achia della casa di Issacar, congiurò contro di lui e lo assassinò presso Gibbeton, che apparteneva ai Filistei, mentre Nadab e tutti gli israeliti assediavano Gibbeton. Baasa lo uccise nell'anno terzo di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto. Appena fu re, massacrò tutta la casa di Geroboamo senza risparmiare anima viva, fino alla sua intera distruzione, secondo la parola che il Signore aveva detto per mezzo del suo servo Achia di Silo, a causa dei peccati di Geroboamo che gli commise e che fece commettere ad Israele, e a causa dello sdegno che aveva provocato nel Signore Dio di Israele. Le altre gesta di Nadab e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Israele? Nell'anno terzo di Asa, re di Giuda, Baasa, figlio di Achia, divenne re su tutto Israele e regnò in Tirza per 24 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore ed imitò la condotta di Geroboamo e il peccato che questi aveva fatto commettere ad Israele. Allora la parola del Signore fu indirizzata a Jehu, figlio di Canani, contro Baasa, in questi termini: «Io ti ho sollevato dalla polvere e ti ho posto a capo del mio popolo Israele, ma tu hai imitato la condotta di Geroboamo e hai fatto peccare il mio popolo Israele, in modo da irritarmi con i suoi peccati. Ecco, io spazzerò via Baasa e la sua casa». Renderò la tua casa come quella di Geroboamo, figlio di Nebat. Chi della famiglia di Baasa morirà in città sarà mangiato dai cani. Chi morirà in campagna sarà mangiato dagli uccelli del cielo. Le altre gesta di Baasa, tutte le sue azioni e il suo valore, non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Israele? Baasa s'addormentò con i suoi antenati e fu seppellito in Tirza. Al suo posto regnò suo figlio Ela. Anche per mezzo del profeta Jehu, figlio di Canani, la parola del Signore fu indirizzata a Baasa e alla sua casa, non solo a causa di tutto il male che egli aveva fatto agli occhi del Signore, in modo da irritarlo con l'opera delle sue mani e da divenire come la casa di Geroboamo, ma anche perché aveva distrutto quest'ultima. Nell'anno 26esimo di Asa, re di Giuda, Ela, figlio di Baasa, divenne re di Israele e regnò in Tirza per 2 anni. Ma il suo ufficiale, Zimri, capo della metà dei carri, congiurò contro di lui. Mentre egli si trovava in Tirza, intento a bere fino all'ubriachezza in casa di Arza, sovrintendente del palazzo di Tirza, Zimri entrò, lo colpì e l'uccise nell'anno 27esimo di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto. Divenuto re, non appena si assise sul trono, sterminò tutta la casa di Baasa e non risparmiò nessun maschio, nessun parente, vendicatore o amico. Così Zimri distrusse tutta la casa di Baasa, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato contro Baasa per mezzo del profeta Jehu, a causa di tutti i peccati di Baasa e dei peccati di Ela suo figlio, che essi commisero e che avevano fatto commettere a Israele, in modo da irritare il Signore, Dio di Israele, con i loro idoli vani. Le altre gesta di Ela e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Israele? Nell'anno 27esimo di Asa, re di Giuda, Zimri divenne re per 7 giorni in Tirza. Il popolo si trovava accampato davanti a Gibbeton dei Filistei. Come il popolo accampato udì: Zimri si è ribellato ed ha anche colpito a morte il re, tutto Israele in quello stesso giorno proclamò re sul campo Omri, capo dell'esercito. Poi Omri, con tutto Israele, salì da Gibbeton e assediò Tirza. Quando Zimri vide che la città era presa, entrò nella fortezza del palazzo reale, appiccò dietro di sé il fuoco al palazzo reale e vi morì. Questo avvenne a causa dei peccati che aveva commesso, facendo il male agli occhi del Signore ed imitando la condotta di Geroboamo e il peccato che questi aveva commesso, inducendo Israele al peccato. Le altre gesta di Zimri e la congiura da lui ordita non sono forse descritte nel libro degli annali dei re di Israele? Allora il popolo di Israele si divise. Metà del popolo seguiva Tibni, figlio di Ginat, volendo farlo re. L'altra metà seguiva Omri. Il popolo che seguiva Omri prevalse su quello che seguiva Tibni, figlio di Ginat. Tibni morì e Omri divenne re. Nell'anno 31esimo di Asa, re di Giuda, Omri divenne re di Israele per 12 anni. Egli regnò 6 anni in Tirza. Poi per 2 talenti d'argento acquistò da Semere il monte di Samaria. Costruì sopra il monte e chiamò Samaria la città che vi aveva costruito, dal nome di Semer, il proprietario del monte. Omri fece quello che è male agli occhi del Signore. Anzi, agì peggio di tutti quelli che l'avevano preceduto. Imitò completamente la condotta di Geroboamo figlio di Nebat e i peccati che questi aveva fatto commettere ad Israele, in modo da irritare con i loro idoli vani il Signore, Dio di Israele. Le altre gesta di Omri, le sue azioni e il valore che egli dispiegò non sono forse descritti nel libro degli annali dei re di Israele? Omri s'addormentò con i suoi antenati e fu seppellito in Samaria. Al suo posto regnò suo figlio Acab. Acab, figlio di Omri, divenne re di Israele nell'anno 38esimo di Asa, re di Giuda. Egli regnò su Israele in Samaria 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece il male agli occhi del Signore più di tutti quelli che l'avevano preceduto. Né gli bastò di imitare i peccati di Geroboamo figlio di Nebat, ma si prese in moglie Jezabele, figlia di Etbaal, re dei Sidoni. Si mise a servire Baal e l'adorò. Innalzò un altare a Baal nel tempio di Baal che gli aveva costruito in Samaria. Acab fece anche il palo sacro e continuò ad agire in modo da irritare il Signore Dio di Israele più di tutti i re di Israele che l'avevano preceduto. Al suo tempo, Chiel di Betel ricostruì Gerico.

egli è mio fratello. Quegli uomini presero ciò per buon auspicio e s'affrettarono ad averne l'assicurazione da lui, domandandogli: Ben-Hadad è tuo fratello? Acab rispose: Andate a prenderlo. Allora Ben-Hadad gli uscì incontro ed egli lo fece salire sul suo carro. Ben-Hadad gli disse: Restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre, e tu stabilirai piazze commerciali a Damasco come mio padre le aveva stabilite in Samaria. Acab disse: A questo patto ti lascerò libero. Acab concluse questo trattato con lui e lo lasciò in libertà. Uno dei discepoli dei profeti disse al suo compagno per ordine del Signore: Colpiscimi. Ma questi si rifiutò di colpirlo. Allora gli disse il primo: Poiché non hai ascoltato la voce del Signore, ecco che appena ti sarai allontanato da me, il leone ti ucciderà. Infatti, non appena egli si fu allontanato da lui, il leone lo trovò e lo uccise. Quegli trovò un altro uomo a cui disse: Colpiscimi. Questi lo colpì e lo ferì. Allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada e si rese irriconoscibile con una benda sugli occhi. Mentre passava il re gli gridò: Il tuo servo si era gettato nella mischia quando ecco un uomo si trasse in disparte e mi condusse un individuo dicendo: Prendi in custodia quest'uomo, qualora venisse a mancare la tua vita pagherà per la sua vita oppure mi pagherai un talento d'argento. Or mentre il tuo servo era occupato qua e là, quello scomparve. Il re di Israele gli disse: Ecco il tuo verdetto, tu stesso l'hai pronunciato. Egli allora s'affrettò a togliersi la benda dagli occhi, e il re di Israele s'accorse che egli era uno dei profeti. Questi gli disse: Così parla il Signore: Poiché hai lasciato scappare l'uomo da me votato all'anatema, la tua vita sarà al posto della sua, e il tuo popolo al posto del suo. Il re di Israele si diresse verso casa, triste ed adirato, e giunse a Samaria. In seguito si verificò il fatto seguente. Nabot di Israel aveva una vigna attigua al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: Cedimi la tua vigna e ne farò un orto, giacché è vicina al mio palazzo. Al suo posto ti darò una vigna migliore o, se preferisci, ti darò il denaro corrispondente. Ma Nabot rispose ad Acab: Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei antenati. Acab rientrò in casa triste ed adirato a causa di questa risposta che Nabot di Israele gli aveva dato, allorché disse: Non ti cederò l'eredità dei miei antenati. Si gettò sul suo letto, volse la faccia da un lato e non prese cibo. Jezabele, sua moglie, andò da lui e gli disse: Perché il tuo animo è così abbattuto e non vuoi prendere cibo? Le rispose: Ho parlato a Nabot di Israele dicendogli: Cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna al suo posto. Ma egli mi rispose: Non ti cederò la mia vigna. Allora Jezabele, sua moglie, gli disse: Ora devi esercitare il tuo governo su Israele. Levati, prendi cibo e sta di cuore allegro. Io, infatti, ti darò la vigna di Nabot di Israele. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con il sigillo reale e le spedì agli anziani e ai notabili che abitavano con Nabot. Così venne scritto nelle lettere: Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Ponetegli di fronte due uomini perversi che lo accusino dicendo: Tu hai maledetto Dio e il re. Poi fatelo uscire, lapidatelo, e così muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili, fecero come Jezabele aveva loro ordinato, in conformità a quello che era scritto nelle lettere che essa aveva loro inviato. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Allora giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui e l'accusarono dicendo: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo fecero uscire fuori della città, lo lapidarono e morì. Poi mandarono a dire a Jezabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Quando Gezabele seppe che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Levati e prendi possesso della vigna di Nabot di Israele, che si rifiutò di dartela per denaro. Nabot, infatti, non è più vivo, ma è morto». Udendo che Nabot era morto, Acab si levò per scendere alla vigna di Nabot di Israele e appropriarsene. Allora la parola del Signore fu rivolta ad Elia il Tisbita in questi termini: «Levati e scendi incontro ad Acab, re di Israele, in Samaria. Ecco, egli si trova nella vigna di Nabot, dove è disceso per appropriarsela. Gli dirai: così parla il Signore: tu hai ucciso e per di più hai usurpato. Poi soggiungerai: così parla il Signore: nel medesimo luogo in cui i cani hanno leccato il sangue di Nabot, leccheranno anche il tuo sangue». Acab rispose ad Elia: «Mi hai dunque colto sul fatto, mio nemico?» Elia rispose: «Sì, ti ho colto, perché ti sei prestato a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te la sventura e ti spazzerò via. Reciderò via da Acab ogni maschio schiavo o libero in Israele. Tratterò la tua casa come quella di Geroboamo, figlio di Nabatte, e come quella di Baasa, figlio di Achia, a causa dell'ira che hai suscitato in me, inducendo Israele a peccare. Anche riguardo a Gezabele il Signore parla in questi termini: i cani divoreranno Gezabele nel campo di Israele. Della famiglia di Acab, chiunque morirà in città, lo divoreranno i cani. Chiunque morirà in campagna, lo mangeranno gli uccelli del cielo». Per la verità, non ci fu nessuno che alla pari di Acab si prestò a fare ciò che è male agli occhi del Signore, perché sua moglie Gezabele lo aveva sedotto. Egli agì in modo abominevole, andando dietro agli idoli, come avevano fatto gli amorrei, che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Quando Acab udì queste parole, si stracciò le vesti, rivestì il suo corpo di sacco, digiunò, si coricò con il sacco e si mise a camminare dimesso. Allora la parola del Signore fu indirizzata ad Elia il Tisbita in questi termini: «Hai visto come Acab si è umiliato al mio cospetto? Dal momento che egli si è umiliato al mio cospetto, io non farò venire il male durante la sua vita. Solo al tempo di suo figlio farò venire il male sulla sua casa». Trascorsero 3 anni senza che ci fosse guerra tra Aram e Israele. Il terzo anno, Giosafat, re di Giuda, scese dal re di Israele. Il re di Israele parlò ai suoi ufficiali: «Non sapete che Ramot di Galaad ci appartiene e noi non facciamo nulla per strapparla dalle mani del re di Aram?» Disse poi a Giosafat: «Verrai con me a combattere a Ramot di Galaad?» Giosafat rispose al re di Israele: «Conta su me come su te, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli come sui tuoi». Però Giosafat disse al re di Israele: «Ti prego, consulta il Signore oggi stesso». Allora il re di Israele convocò i profeti, in numero di circa 400, e disse loro: «Devo salire a combattere a Ramot di Galaad oppure devo rinunciarvi?» Quelli risposero: «Sali pure, perché il Signore la darà in mano al re». Allora Giosafat domandò: «Non v'è nessun altro profeta del Signore perché possiamo consultarlo per mezzo suo?» Il re di Israele rispose a Giosafat: «V'è ancora un uomo adatto per consultare il Signore, ma io lo detesto perché non mi profetizza mai cose buone, ma solo cattive. È Michea, figlio di Imla». Giosafat replicò: «Il re non dica queste cose». Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: «Fa venire subito Michea, figlio di Imla». Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda,